Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Mesi fa, il 5 luglio, ho iniziato la prima puntata di Giro di Vita dicendo che tutte le volte che dicevo a qualcuno, sai, farò un programma in radio su quelli che cambiano vita, che mollano tutto e partono e cambiano e se ne vanno, tutti mi dicevano, ah sai, ne parlavamo l'altra sera, sì sì, bisogna farlo, pure quel mio amico mi diceva, pure io. Insomma, una cosa, si tratta di una cosa che tutti dicono almeno una volta e poi qualcuno lo fa. E noi per 2 mesi vi abbiamo raccontato le storie di quei qualcuno. Abbiamo parlato di gente che ha mollato tutto per cambiare lavoro, per cambiare nazione, per andare dall'altra parte del mondo. E per 2 mesi abbiamo sentito queste storie, queste esperienze, queste avventure bellissime. E ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Abbiamo fatto un catalogo bello grosso di gente che ne so, è andata a vivere in Brasile, è andata a vivere in Finlandia, è andata a vivere in Francia, in Svizzera, che è tornata in campagna, che ha aperto negozi, che è andata a vivere in barca, a lavorare sulle navi, insomma di tutto. E a questo punto però, giunti all'ultima puntata, io invece ho una domanda seria e precisa, proprio una domanda per voi che avete ascoltato e che non avete mai telefonato perché non avevate, diciamo, un giro di vita da raccontare, una storia, un cambiamento, un'avventura. E la domanda è: che vogliamo fare? Che abbiamo deciso? Sono 2 mesi che vi diciamo, vi raccontiamo di persone che hanno cambiato. Ve la siete fatta un'idea? Vi è venuta voglia di cambiare vita? Ce l'avete un piano B, come si dice in questi casi? Un'alternativa, un progetto, una fantasia, un sogno? Oppure avete deciso che no, fondamentalmente state bene dove state? Perché io vorrei sapere che effetto abbiamo fatto. Vorrei sapere, le persone che sentendo la radio pensano, ma anch'io vorrei fare così, anch'io ho un'idea, che cosa hanno intenzione di fare? Ecco, chiamatemi per dirmi questo. Qual è il vostro progetto di vita? Qual è il vostro progetto di cambio vita? Anche se ancora non l'avete fatto, ne parliamo insieme. Perché un'idea, non sai mai se è una buona idea finché non la racconti a qualcuno. Perché finché ce l'hai in testa, sono tutte buone. Quando la racconti a qualcuno e tu stesso senti la tua voce che ne parla, che cerca di convincere, di metterla insieme, capisci veramente se è un'idea buona o no. Chiamateci e raccontatecela. 800 24 00 24. Gaeta, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Cioè, com'è sta cosa? Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Grazie, è bello, so. L'hai fatto tu? Ma pare scemo tu, invece. Guarda, io di questa cosa qui vorrei parlare, perché secondo me proprio non funziona così. Però ne parliamo oggi, davvero. Benvenuti, 3 settembre, venerdì, ultima puntata di Giro di Vita, ultima occasione, venite, avvicinatevi, perché da lunedì non ci siamo più. Io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e questo è il Giro di Vita, il programma che vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e oggi storie di chi deve ancora cambiare tutto, progetti, idee, storie che ancora potrebbero iniziare. 800 24 0024 per parlare con noi, Facebook per commentarci alla pagina Giro di Vita. Ecco, io volevo cominciare da qua, da questa cosa. Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Non funziona. Se c'è una cosa che ho capito in 2 mesi di programma è che se non sai che cosa cerchi, è inutile che parti. Ce la devi avere almeno una mezza idea, un'immagine, un dire io vorrei fare questa cosa qui. Ecco, raccontateci questo oggi. Che cos'è che vorreste fare, anche se ancora non siete sicuri sicuri. Ci proviamo insieme. Felipe, pronto? Ciao! Felipe! Eccoci qua. Eccoci. Dove sei? Qual è la tua vita adesso? Adesso la mia vita è la ristorazione. Io lavoro nel settore della ristorazione da 20 anni, sono brasiliano, 100% brasiliano, e da 20 anni in Italia, da 20 anni che ho intrapreso questo mestiere. E quindi tu già l'hai fatto un giro di vita? Sei venuto dal Brasile all'Italia? Sono venuto dal Brasile nel 90, sì, ero un ragazzo appena 20 anni, per studiare, appunto volevo fare enologia, poi insomma ho fatto scienze agrarie in un paesino qua, in una città vicino a Roma. Bon, questa è un'altra storia. Comunque per fare le tirocine pratica, ho iniziato a lavorare nel ristorante dove c'era una bella cantina, ho iniziato a lavorare nella ristorazione. Poi mi sono appassionato a questo mestiere, alla cucina italiana, all'enogastronomia italiana, che poi tra l'altro non è difficile appassionarsi all'enogastronomia italiana, insomma. No, è buono, se c'è una cosa che abbiamo ricordato in due mesi di italiani che vanno all'estero è che ti manca la cucina poi a quel punto. Quindi ho lasciato l'università, ho intrapreso questo mestiere, l'ho fatto con interesse, l'ho fatto con impegno, quindi ho anche fatto bei passi a livello professionale, anche con una certa soddisfazione in tutti i sensi. Oggi mi sento pronto di aprire un'attività per conto mio, però la voglio fare in Brasile perché qui voglio tornare a casa. Quindi, tu hai il classico giro di vita di chi ha fatto un cambiamento e però a un certo punto decide che è giunto il momento di tornare facendone un altro, che non è detto che sia facile, non è che poi uno torna ed è tutto in discesa. La paura è quella più che altro, i ricordi che ho del Brasile sono i ricordi legati a 20 anni fa. Ora ritorno in Brasile, sì, la situazione in Brasile adesso lo sappiamo tutti, chi ascolta la 24 lo sa benissimo che il Brasile è uno dei paesi che trainano questa la crescita economica attuale mondiale, no? E sembra un buon momento, sì. E quindi è un bel cosa, momento. Cosa vuoi tornare a fare in Brasile? Io il ristoratore, ovviamente. Il ristoratore però in ciabatte, non i mocassini. In ciabatte sulla spiaggia, sulla sabbia. E che ristorante pensi di aprire? Voglio fare un ristorante 100% italiano, senza inquinamenti di nessun genere di cucina sudamericana. Lo voglio fare italiano. Infatti il nome probabilmente sarà Italian Style 100%, sarà sicuramente questo. Italian Style è un nome già in inglese, chiamalo che ne so, con un nome stile italiano, chiamalo stile italiano. Stile italiano, infatti anche questo qua era una cosa che avevo già pensato, sì, stile italiano. E quindi sarai un ristoratore brasiliano che conserva la tradizione della cucina italiana, dove, in che posto del Brasile? Io sono di Rio, nativo di Rio, e vado a Búzios, che è una località, tra l'altro molto bella e molto conosciuta, che sta a 230 chilometri da Rio, è un posto stupendo dove ci sono bellissime spiagge, dove c'è tanto da fare a questi livelli qua, di ristorazione eccetera, di proposti con il ristorante italiano, assolutamente sì. Felipe, ce l'hai una scadenza, quando torni? Voglio andare adesso, diciamo, la cosa la sto affrontando più seriamente in quest'ultimo anno, ho preso tantissimi contatti, ho rispolverato un po' le mie vecchie amicizie, ne ho fatte altre, e poi anche con italiani che conosco qua e che magari hanno contatti lì, quindi il mio giro di amicizie e di conoscenze si è allargato anche lì a Rio, e quindi voglio andarci adesso a novembre, dicembre, massimo entro gennaio. Stacco il biglietto e vado. Ecco, bravo, perché questo, Felipe, è una cosa importante. Bisogna darsi una scadenza, bisogna avere un progetto preciso. No, assolutamente sì. Felipe, grazie per averci telefonato. Invito tutti gli altri che ci ascoltano a fare così. Raccontateci il vostro progetto, il vostro sogno, il vostro spunto, la vostra suggestione, dicono quelli che vogliono fare un po' gli americani. 800 24 00 24. Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica? Sulla spiaggia, sole, mare, tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle, che ti dice quello che devi fare. Certo ci vuole coraggio, bisogna abbandonare tutto. E se ti va male? Il rischio c'è. Del resto se non rischi, tu non hai mai rischiato. Una volta ho messo due fisse a Intercagliari. Eccolo qua, il classico sogno del bar sulla spiaggia in un film di Aldo Giovanni e Giacomo, però bisogna fare un progetto, una scadenza. Noi in una delle prime puntate abbiamo intervistato Simone Perotti, che è diventato, con un libro che si chiama Adesso Basta, il punto di riferimento di un sacco di gente che vuole scendere dal treno in corsa del troppo lavoro, cambiare vita, ritirarsi, fare downshifting, si dice adesso, no? Rallentare, scoprire una vita diversa. E se voi leggete questo libro, ci sono un sacco di riflessioni, di storie, e poi ci sono anche le tabelle. Cioè Perotti, che è il guru, il riferimento di tante persone che vogliono cambiare vita, nel suo libro fa le tabelle, cioè i calcoli di quanto bisogna risparmiare, di quanto tempo bisogna metterci, di tutte le voci, perché non è una follia, non c'è la gente che dalla mattina si sveglia e se ne va, e se ce n'è è una minoranza, bisogna pensarci un po'. Cristina, ci hai pensato? Pronto? Pronto! Eccoci Cristina. Buongiorno a tutti. A che punto sei tu del tuo cambio vita? Io sono arrivata a tre quarti, credevo di essere arrivata al 100% a metà agosto, ero tutta entusiasta, invece purtroppo alcuni ostacoli mi hanno detto di fare downshifting, di rallentare e di rifletterci un attimino. Senti, però, che cosa fai tu e qual è il tuo punto d'arrivo? In che modo vuoi cambiare? Da cosa a cosa? Allora, io sono infermiera e nel tempo libero però sono cantante musicista, ho diverse situazioni, tra cui un gruppo, un duo, è un gruppo country che mi sta dando diverse soddisfazioni, e allora avevo il mio progetto è quello di fare solo la cantante musicista, ma non a livelli da fare, da andare in televisione, Sanremo, questo, questo, questo. Non ho queste ambizioni perché non è l'ambiente che mi piace. Ma scusa, c'è mercato per la musica country in Italia? Cioè ci si può vivere? E allora, fino a qualche anno fa no. Ultimamente un po' la gente è un po' stufa del latinoamericano, non che non piaccia, però effettivamente ha fatto un po' il suo tempo, stanno ricercando cose nuove e stanno nascendo queste serate all'insegna del country. Come musicista quello che contesto un po' io è l'attitudine italiana nel rendere sempre tutto troppo accademico, nel senso c'è stato il latinoamericano, hanno cominciato con le scuole di salsa, di merengue. E ora da noi ci sono discoteche che o fanno solo salsa o fanno solo, cioè la pista di salsa, la pista di merengue, la pista di baciata. Scusami, ma cioè, tu non hai paura che se adesso va il country poi possa diventare una moda che a un certo punto ti lascia lì così come un'onda che cade e tu rimani senza acqua? Certo che ho questa paura, però c'è una cosa, mentre in alcune situazioni musicali il cantante musicista deve essere giovane, snello, figo, ballerino e tutto quanto, nel country, essendo una musica che richiede capacità tecniche e armonia e melodia, e il ballo lo possono fare tutti, sia quelli un po' più sovrappeso che quelli magrissimi, ed è una cosa di aggregazione, di festa di paese, anche se perde l'onda del momento, comunque mi permetterà lo stesso di avere una certa nicchia di estimatori. Ho capito, sei fiduciosa. Mi dici... Ma poi nella vita si può mai sapere. Sì. Ce l'hai una scadenza? Entro quanto lo vorresti fare? Allora, visto questi intoppi, diciamo così, lo scopo mio prossimo è quello di cercare un sistema per prendere un'aspettativa sul lavoro, anche perché mio marito deve prendere l'aspettativa anche lui in quanto ci Ah, quindi cerchi una strada, diciamo, con un piccolo paracadute però, per eventualmente poter tornare indietro. Purtroppo non essendo benestante dal punto di vista economico... Ma è giusto così, non bisogna giustificarsi se uno ha la possibilità di prendere un'aspettativa, perché poi c'è sempre questo, che quelli che ci ascoltano ogni tanto ci scrivono, però quello c'aveva la casa, quello c'aveva... Non è un peccato. No, niente, nel senso che quello che ho me lo sono costruita passo passo, sempre facendo attenzione. E quindi il mio obiettivo è l'aspettativa, il tentativo... Se funziona, mollare tutto del vecchio, andare sul nuovo e chi se ne frega. E se no torna. Va bene Cristina, grazie per averci raccontato la tua storia. 800240024 è il numero per raccontarci i vostri progetti, i vostri sogni per cambiare vita. E a Cristina dedichiamo delle controindicazioni. Questa scelta di vita è sconsigliata se... Quando invitate gli amici alle vostre esibizioni, la prima domanda è... Non è che si paga? La vostra carriera è iniziata da una cantina ed è arrivata alla sagra dello gnocco fritto. Il vostro brano live più applaudito è Bianco Natal. Se dopo un'audizione vi hanno detto «Non ci faremo certo sentire noi», siete nati come cover band dei Genesis, ma siete finiti a cantare Maracaibo sulla spiaggia. Eh sì, perché noi nel corso delle settimane, dei mesi, degli anni, sì, mi sono allargato, delle settimane, dei mesi, vi abbiamo anche dato delle controindicazioni, perché sennò poi, insomma, non vogliamo essere, diciamo, additati come quelli che vedono solo il lato bello e positivo del cambio vita, quindi vi abbiamo anche cercato di dare delle controindicazioni, di mettervi in guardia, se proprio siete negati, lasciate perdere. Ah, c'è un messaggio di Antonio che dice: il programma mi hai fatto, no, a me, parla con me, mi hai fatto piacevolmente compagnia in questi mesi, ma ho dei dubbi su queste storie. No, ma non sono attori, non è come quei programmi televisivi che noi prendiamo, sono persone che chiamano, che ci cercano, poi magari ce la raccontano, uno quando racconta magari ce la racconta anche un po' meglio di com'è, cerca di omettere dei lati negativi, però sono tutte persone vere, vi assicuro. Francesco, pronto? Ciao, eccoci, ciao, eccoci qua. E Francesco, qual è la tua idea per cambiare vita? Allora, il mio sogno sarebbe quello di andare a vivere a New York. Quando ti è venuta questa idea? Nel 2004, quando sono stato a New York in viaggio di nozze. E ti stai organizzando, ci stai pensando, stai vagliando l'ipotesi? No, guarda, il discorso è questo qui. Io adesso, 40 anni, sposato, due bambini, una di 5 anni e uno di 6 mesi, è molto molto difficile pensarci, per quanto la voglia c'è sempre, ogni tanto se ne parla, compro libri, seguo blog, ho addirittura aperto un sito io su New York per continuare a respirare un po' quell'aria magica. Ma scusa, però... quindi praticamente la famiglia ti ci ha portato perché ci sei andato in viaggio di nozze, ma la famiglia ti frena? Sì, paradosso, sì, perché è apposta, comunque ormai impiantato una vita a Roma, comunque lavoriamo tutte e due, per fortuna, di cui sempre abbiamo il posto fisso, i bambini, il mutuo, la casa, come si fa a mettere in stand by tutto questo, mollare e andare dall'altra parte? Questa è una bella domanda. Noi abbiamo fatto una puntata su persone che hanno cambiato anche a 50, 60 anni, quindi non bisogna perdere la... Perché, guarda, l'età non è assolutamente un problema, è lo sforzo di trasferirsi con un'intera famiglia. Cioè, significa mandare i bambini già da adesso a una scuola dove parlino inglese. Perché... guarda, male non gli fa, se ce la fai. Cioè, poi comunque New York, mica dice vi trasferisco in un posto dove chissà che cosa trovo. No, assolutamente. Ma cioè, New York a me è piaciuta tantissimo perché... Vabbè, a parte che io sono stato solo a Manhattan... Dimmi una cosa che ti è piaciuta di New York rispetto all'Italia, così poi chiudiamo. E ho avuto la netta sensazione che tutte le persone a New York lavorino, che sono coscienti di far parte di un unico grande ingranaggio che fa funzionare la città. Va bene, questa è una buona impressione, quindi anche una voglia di lavorare, di far parte di questo ingranaggio. Dedichiamo, vedo Alessandro Chiappini pronto, delle controindicazioni anche a te. Questo stile di vita è sconsigliato se, quando andate a San Marino, sentite il fuso orario. Il bagaglio a mano lo riempite di spaghetti e pelati. Soffrite di insonnia senza il vostro cuscino e materasso. Avete traslocato 6 mesi fa e ancora avete gli scatoloni per casa. Sopportate benissimo 8 ore in aereo se vi fanno l'anestesia totale. Viaggiatori, emigranti, persone che si spostano senza problemi, ne abbiamo sentiti tanti, però giustamente anche bene a raccontare un po' di difficoltà e di cambiamenti più, come dire, più sfumati. 800240024, Salvo, pronto? Sì, ciao. Eccoci, il tuo giro di vita. Ma allora, io ho fatto un mezzo giro di vita 12 anni fa. Quando, dopo aver fatto delle esperienze di viaggio per lavoro in Estremo Oriente, avevo l'opportunità di trasferirmi sempre all'interno della stessa ditta o a Singapore oppure negli Stati Uniti. Avevo avuto due offerte che sono arrivate più o meno nello stesso momento. E cosa hai scelto? Però, no, alla fine invece ho scelto di fare, appunto, dicevo, un mezzo giro di vita, perché visto che quella che all'epoca era mia moglie non parla l'inglese, avrebbe avuto difficoltà a ritrovare un lavoro, insomma, così lontano dall'Italia, alla fine abbiamo scelto di spostarci solamente da Catania alla Lombardia, dove ci troviamo tuttora. Però scusa, il cambiamento Singapore alla Lombardia, insomma, c'è una certa differenza. Sì. C'è, solo che mia moglie all'epoca non era disponibile con una laurea in medicina di fare la casalinga o di fare così, di stare, insomma, di non lavorare, insomma, di rinunciare a quello per cui aveva studiato per tanti anni. Ne parlate ancora ogni tanto, ci pensi? Beh, ci penso, però sai, la vita si evolve, io adesso sono felice di essere qui in Lombardia, poi vabbè, nel frattempo ci siamo anche separati, però abbiamo due stupendi bambini che adesso ovviamente mi tengono qui, perché io nel frattempo ho avuto delle proposte di trasferirmi in Germania, per esempio, molto recentemente, ma purtroppo è una scelta che non faccio, non posso fare, perché andare in Germania da separato significherebbe non vedere più i miei figli. Ho capito, questa è la famiglia, noi non la nascondiamo questa cosa, la famiglia però, è un freno tante volte. È un freno, però nello stesso tempo mi permette di avere un sogno di cambiamento un po' statico, diciamo, rimanendo in Italia per i prossimi 10-20 anni. Spero di cambiare un pochino l'Italia, visto che in questo momento non mi piace per nulla come stanno andando le cose in questo nostro povero paese, quindi mi sto impegnando per cercare di cambiare l'Italia in modo da lasciare qualcosa di migliore di quella che abbiamo adesso per i miei figli. Per i figli. Grazie, poi chissà, ci penserai dopo, insomma. Però ho un altro sogno, diciamo, a lungo termine. A volo, però, dimmelo, sintetizzamelo in una parola. Se tutto va bene, quando saranno più grandi i miei figli e quindi saranno indipendenti, andrò a vivere probabilmente in Madagascar, che è la terra della mia compagna. Ah, allè, è un posto vai. Molto bello. Evviva il Madagascar! Sentiamo Claudio in chiusura, pronto? Ciao. Claudio, che giro di vita fai? Il giro di vita avverrà domani, mi sposo. Vabbè, ma questo è il giro di vita classico. È una cosa che prepari, che ti cambierà completamente la vita. Beh, diciamo che ad un anno fa non ci avrei pensato minimamente. Invece nel giro di poco tempo è stata presa questa decisione e sono contentissimo. Senti, ma noi chiediamo sempre alla gente che fa questi cambiamenti, tipo andare in Brasile, andare nel deserto, ti prendono per pazzo. A te ti prendono per pazzo? Beh, tutti quelli sposati sì. Ecco, va bene. Claudio, grazie. Noi siamo in chiusura. Sento la nostra sigletta. Ma ringraziamo Edward Kill, che è questo cantante, autore di questo pezzo diventato famoso su internet come Trollololo, che è la nostra sigla. Ogni giorno arriva almeno una mail di gente che ci chiede che cos'è. Lo ringraziamo anche lui. E ringrazio veramente tutti. Alessandro Chiappini, che si è occupato della parte tecnica oggi. Valerio Rocchetti, che si è alternato con lui durante le state, Fabrizio Intonti per tutto, Gloria Guerrera, tutta la sede di Radio 24 di Roma, sono stati veramente tutti molto gentili con me, ringrazio tutta la radio per questo, per averci permesso di stare insieme in compagnia, e ringrazio voi perché ce ne avete raccontate tante, ci siamo, diciamo, spronati a vicenda, e anche se solo avete ascoltato, è stato un piacere stare con voi. Speriamo che ci sia un'altra occasione di raccontarci cambiamenti, storie, vite, perché diciamo la verità, a che serve vivere se poi non lo racconti a qualcuno? Io sono Achille Corea, questo era Giro di Vita, statemi bene. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.